La stretta in arrivo da Roma ha subito irrigidito Bucarest, che in base alle indiscrezioni sul pacchetto sicurezza ha convocato una riunione del governo dedicata ai romeni in Italia. Collaboreremo con le autorità italiane, ha detto al termine il premier Tariceanu, affiancato dal ministro della difesa Melescanu, perché non vogliamo che i romeni onesti in Italia siano lesi o che nascano sentimenti anti-romeni e xenofobi nella penisola. Bisogna proteggere le relazioni tra i due paesi dalle conseguenze di certe misure, aggiunge Tariceanu. È nell'interesse di tutti, perché, e a questo punto diventa meno conciliante, la comunità romena onesta nel bel paese contribuisce con oltre l'1% al PIL italiano, mentre in Romania si contano circa 25.000 imprese a capitale italiano. Nei prossimi giorni il ministro romeno degli interni arriverà a Roma. Intanto però il titolare della difesa accusa: le autorità italiane sono troppo deboli con i criminali nomadi che provengono dalla Romania. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore.